La decurtazione del punteggio è una sanzione, a differenza di quella pecuniaria, è una sanzione di tipo personale, va ad incidere sulla validità di un documento personale. È chiaro che per poter decurtare dei punti da una patente dobbiamo ovviamente aver identificato il conducente. In alcuni casi ciò non è possibile. Proviamo a pensare per esempio ai casi classici di divieto di sosta, dove esistono tre situazioni che prevedono la decurtazione di 3 punti, oppure al caso in cui uno transiti con il semaforo rosso senza poter essere fermato in tempo utile, oppure ancora ai normali rilevatori elettronici della velocità che procedono in automatico. In questi casi, oltre alla multa, cosa succede? Si chiede con un modulo a parte di segnalare all'organo di polizia che sta procedendo i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Il proprietario può tranquillamente riferire che era lui stesso alla guida oppure trasmettere i dati di chi fosse alla guida in quel momento per effettuare la decurtazione dei punti. Quali sono i termini entro i quali effettuare questa comunicazione? Bisogna effettuare questa comunicazione entro 60 giorni dalla data della notificazione del verbale. Altrimenti cosa succede? Scatta un'ulteriore sanzione amministrativa che varia da 250 a 1000 euro che il proprietario dovrà ulteriormente sborsare. Quali sono le procedure per inviare questi moduli? Vengono allegati dei moduli specifici ai verbali che consentono di effettuare direttamente questa dichiarazione portandola al comando di polizia che sta procedendo oppure inviandola tranquillamente per posta.